Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 ottobre, il sole in regione sorta alle 7.13 e tramonterà alle 18.37. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Nel Vecchio Testamento, ma il flagello continua in molti paesi africani, erano le cavallette a far danno. Oggi qui da noi sono arrivate le cimici asiatiche che anno dopo anno conquistano nuovi territori. L'ERSA ha dedicato a questi temi un convegno e i risultati della lotta a questo insetto non sono ancora incoraggianti. A seguire il corsivo di Enos Costantini che ci parla di come, solo in apparenza, in natura ci sia disordine, citando un esempio che ben si addice anche alla nostra regione. Di collaborazione tra agricoltura, scienza e università si occupa la rubrica delle normative, prima di quella che traccia la storia dell'allevamento dei bovini in regione, che solo a fine 800 cominciò a intravedere la possibilità di selezioni per razza. Una gita a Barbana e Grado è al centro dello spazio che dedichiamo ai giardini, mentre per la storia della grappa ci imbattiamo nei primi alambicchi moderni. Andamento dei mercati, previsione del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Forse non è ancora paragonabile alle bibliche cavallette, ma la cimice marmorata asiatica sta creando più di qualche problema e danno all'agricoltura. Pochi giorni fa l'ERSA ha organizzato un convegno dedicato a queste problematiche. Oggi Vita nei Campi ospita l'ingegner Paolo Tonello, direttore del servizio fitosanitario di ERSA. Chiediamo subito cosa è emerso dal convegno. Il principale messaggio che si è voluto dare al mondo agricolo è che purtroppo questo è un organismo che di fatto è ineradicabile e con cui bisognerà imparare a convivere in qualche maniera, studiarlo per cercare la maniera corretta di affrontarlo, per contenere i danni. I danni, qual è la progressione negli ultimi anni? Questo insetto è apparso in Friuli Venezia Giulia nel 2014, primi esemplari identificati dall'Università di Udine. Nel 2015 si è cominciato a impiantare un monitoraggio per vederne la diffusione. Già dal 2016 sono comparsi pesanti danni, soprattutto alle colture frutticole. Nel 2016 comunque erano alcune zone, soprattutto il Codro Ipese, Medio Friuli, e quelle ad essere più colpite, mentre in altre zone erano ancora indenni. Con il 2017 e ancor più col 2018 ormai l'insetto si è diffuso su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree montane che non sono favorevoli al suo insediamento. Quali le colture più attaccate? Principalmente le frutticole. Abbiamo registrato danni anche su soia e mais, anche se poi sono di un tipo diverso. In realtà la cimice è estremamente polifaga, lei è ospite su più di 300 specie, non solo colture agricole ma anche selvatiche e perfino infestanti. È un insetto di difficile gestione. Estremamente difficile gestione, perché oltre a questo fatto della polifagia deve cambiare coltura per il suo ciclo di sviluppo, ma è anche estremamente mobile. Mediamente possono percorrere 5 km al giorno, per cui le tecniche di difesa chiaramente risentono del fatto che una volta effettuati anche i trattamenti ritornano rapidamente. Abbiamo parlato di tecniche di difesa, a che punto siamo? Visto che la difesa chimica da sola si è rivelata inefficace, ERSA insieme alla regione avevano suggerito e promosso anche l'utilizzo di reti antinsetto. Anche le reti antinsetto non sono la panacea, vanno gestite, permettono di ridurre il danno. La ricerca invece prosegue su altri filoni, ci sono stati fatti delle prove prove sperimentali con reti antinsetto dotate di insetticida, non sono ancora registrate, non possono essere utilizzate, però è un filone che è stato esplorato. Quello che si spera possa essere il percorso più adatto è quello della ricerca dell'antagonista naturale, quindi un parassitoide. A proposito di antagonisti naturali, c'è qualche buona novità, soprattutto che arriva dalla nostra regione, di cui si può dire ancora poco, però ci accenni almeno. Dopo i vari tentativi effettuati con organismi autoctoni italiani, che però non hanno sortito grossi risultati, nella nostra regione sono stati ritrovati dei piccoli insetti che parassitizzano le uova. Non è ancora ben chiaro esattamente che specie sia, però è significativo ritrovarli in aziende biologiche, dove evidentemente questi organismi hanno avuto modo di rafforzarsi e di attaccare la cimice. Sul sito ERSA è disponibile la diretta streaming che è stata registrata in occasione del convegno e in più sono presenti tutti gli atti. Non sempre la razionalizzazione dell'agricoltura ha portato buoni frutti, non sempre la natura è ordinabile a nostro piacere, ne è convinto Enos Costantini, che in questo corsivo lancia dei paragoni perlomeno suggestivi. Texville e Kit Carson, cavalcando verso un villaggio di indiani Pima, nell'assolata Arizona presso il Gila River, vennero dei campi in cui mais, fagioli e zucche crescono insieme, in quello che, ai loro occhi di uomini bianchi, pare un grande disordine. Questi musi rossi non sanno cos'è la specializzazione, bofonchia Kit Carson, lisciandosi il pizzo. Una vecchia indiana che riposava all'ombra di un grande cactus fa un segno di pace ai due cavalieri e educatamente così si esprime. Aug, capelli d'argento con la sua colt può bucare una moneta a 30 passi e sa affrontare una tribù di feroci Apache sul sentiero di guerra, ma capisce poco di agricoltura. Nella terra del popolo Pima non ci sono raclis, quindi le alte piante di mais fanno da sostegno ai nostri fagioli. I fagioli aiutano il mais a crescere in modo per noi misterioso, ma così ha voluto il grande spirito per aiutare il popolo rosso. Le zucche dalle grandi foglie soffocano le cattive erbe. Aug, ho detto. Tex, che aveva ascoltato in silenzio, commenta sornione indirizzandosi al suo pard. «Ti sta bene, vecchio caprone, cose impari. Non stammetti la bocche, là che non ti tocchie». Ora la specializzazione ha conquistato la valle del fiume Gila. Il popolo Pima si è trasferito, i problemi agronomici e ambientali sono diventati grandissimi. I friulani avevano copiato gli indiani coltivando, anche sullo stesso appezzamento, le tre piante soprannominate, le quali, va detto, sono un dono che ci hanno fatto i popoli nativi delle Americhe. Poi anche qui è arrivata la specializzazione con la trasina. Il mais non nutre più i friulani, bensì maiali lontani. I fagioli si chiamano soia e vanno pure essi a nutrire maiali lontani. I fagioli per uso umano, ormai poco in auge, provengono da altre regioni, oppure da uno stato nordamericano, il North Dakota, che, guarda caso, porta il nome di un popolo indiano. Le zucche servono ormai solo per la stupidità di Halloween e per qualche raro edonistico piatto di gnocchi. I tempi continuano però a cambiare. The times they are changing. Ora sarebbe venuto il momento di pensare al Friuli come un grande campo dove coltivare i cibi per nutrire i friulani e non i maiali lontani. Ah sì, la vecchia squaw sotto il cactus si chiamava Vigliute. Il prossimo 15 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi della misura 16.1 del programma di sviluppo rurale. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, l'intervento 16.1 del PSR ha come obiettivo il rafforzamento dei legami tra il mondo produttivo e quello della ricerca per favorire l'introduzione di innovazioni nei prodotti o nelle tecniche di produzione e di trasformazione, il tutto con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Queste attività si realizzano attraverso i cosiddetti partenariati europei per l'innovazione, che di fatto sono gruppi di lavoro interdisciplinari formati da agricoltori, enti di ricerca, studi professionali, associazioni di categoria, artigiani e industrie di trasformazione, e hanno come obiettivo comune quello di individuare appunto soluzioni pratiche a specifici bisogni espressi dalle imprese agricole. In pratica il bando che cosa finanzia di preciso? Ma c'è stato un primo bando, la cui graduatoria è uscita lo scorso settembre, che ha finanziato la costituzione e l'avvio dei gruppi operativi. Questo secondo bando invece servirà per finanziare i progetti migliori fra quelli presentati tra i gruppi operativi, tenuto conto che la misura nel suo complesso ha una dotazione di circa 2 milioni e mezzo di euro. Quanti gruppi operativi si sono costituiti in Friuli Venezia Giulia e per quali aree di interesse? Allora, nella prima fase sono stati riconosciuti idonei 24 gruppi operativi, dei quali, in base alle risorse disponibili, sono stati finanziati solo 12. Le tematiche sono varie, ma per lo più riguardano il settore vitivinicolo in termini di sostenibilità ambientale, selezione varietale, viticoltura di precisione, eccetera. Ma ci sono anche importanti iniziative che riguardano la filiera foresta-legno, l'ortofrutta e la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie. In molti gruppi operativi è coinvolta naturalmente l'Università degli Studi di Udine come partner scientifico con diversi dipartimenti di ricerca. E tra i progetti non finanziati nella prima fase? Bisogna dire che sono stati presentati temi molto interessanti che potrebbero rientrare in gioco in questa seconda fase. Penso per esempio ai gruppi operativi che si interessano di micotossine nei cereali, dell'utilizzo di droni in agricoltura, della valorizzazione della carne di suino che non entra nel circuito dei prosciutti o dell'introduzione della coltura del nocciolo. E poi ci sono due iniziative che riguardano produzioni un tempo molto diffuse, poi abbandonate, ma che a determinate condizioni potrebbero anche rinascere. Parlo della canapa, della quale si può ottenere olio, mangimi, fibra, e infine la gelsibachicoltura, naturalmente ripensata con tecniche e destinazioni moderne. Nella seconda puntata dedicata ai bovini, Sandro Menegon ci ha fatto capire che nella prima metà dell'Ottocento il concetto di razza popolazione appartenente ad una stessa specie con caratteristiche morfologiche e funzionali peculiari trasmissibili alle generazioni successive non era ancora stato utilizzato. Sì, ma le descrizioni degli autori citati ci permette di individuare l'attitudine dei bovini allevati, la loro mole e colore del mantello. Verso la fine dell'Ottocento si iniziava a parlare di razza in base alla classificazione del Sansom, suddivide in varietà generalmente denominate come le zone di allevamento. E quindi? All'esposizione di Villa Santina a Tolmezzo nel 1881-82, gli animali esposti venivano considerati di razza nostrana. Negli anni a seguire si riteneva che in Valcellina fosse presente una popolazione simile al bestiame del Belunese. In Carnia, nelle prealpi carniche e in buona parte del Canale del Ferro, si suddividevano i bovini di razza alpina e carniella, e nelle valli del Torre e Natisone erano presenti animali di razza slava. Quali caratteri somatici caratterizzavano questi animali? Bestiami di piccola taglia, le alpine e le carniche alte da 100 a 120 cm, con produzione media di circa 18 quintali a lattazione. Le slave più piccole, dal peso medio di 230 kg, con attitudine lattifera meno marcata. Tranne gli animali della Valcellina e quelli dei forni savorniani a mantello grigio, per i rimamenti non c'era uniformità di mantello, da semplici, bianco, rosso, nero, frumentino e bruno, ai variamente pezzati financo i tigrati. Ma tra queste aree c'erano dei punti di transizione? Sì, in Val Colvara le alpine e le carniele risultavano spesso incrociate con i bovini allevati in pianura. Le toppane, presenti nei comuni in Meduno e Travesio, si espandevano e si incrociavano nelle zone limitrofe. Nel Gemonese, zona di transizione con carni a Canale del Ferro e pianura, nel 1914, al primo concorso premi di animali bovini giovani, si parlava di vitelli a mantello pezzato rosso di tutte le gradazioni, purché della razza nostrana di montagna. Di un incontro casuale durante una gita all'isola di Barbana, parlando di alberi, di fiori, di rose con due turisti austriaci, ci parla oggi Franca Merluzzi nel suo spazio dedicato ai giardini. All'imbarcadero per Barbana, la coppia di austriaci si era fatta notare per l'abbigliamento da ciclisti. Ci siamo ritrovati seduti vicino e lì è nata la conversazione. Così veniamo a sapere che hanno già percorso tratti della ciclovia Alpe Adria. Simpatici e informati, matti sapevano molto di Grado e infatti avevano in programma l'itinerario naturalistico in Val Cavanatta. La signora è un'appassionata di piante e il discorso si è approfondito quando ci siamo ritrovati a un tavolo condiviso. Assieme abbiamo elencato nelle due lingue i tanti alberi messi a dimora sull'isola: bagolari, pini marittimi, magnolie, cipressi, olmi, lecci, frassini, pioppi, un vecchio glicine, cespugli di lavanda. Più che un parco, è un luogo di sperimentazione e di adattamento delle diverse specie, dove c'è chi resiste e chi soccombe. A Grado conosce il Parco delle Rose. Attratta dal nome, racconta che la prima volta si aspettava un grande roseto sul retrospiaggia. In effetti, quando il parco è nato, aveva una lunga serie di pergolati su cui si arrampicavano i rosai a formare un susseguirsi di gallerie fiorite. Il parco fu ideato dal poeta gradese Biagio Marin, che voleva un'oasi di frescura per i gradesi e gli ospiti di lingua tedesca. Nei vivai i giardinieri producevano le piante per le aiuole e per i fiori recisi che ornavano gli uffici spiaggia. Il comune di Grado, comune fiorito, ha sfiorato per questo un primato a livello mondiale grazie anche al volontariato. Ritornando da Barbana, abbiamo guardato gli isolotti con le ultime fioriture di limonio, in gradese fiori de tappo, che colorano di viola le barene. È una pianta protetta che d'estate ha un bel fiore violetto. Fiori de tappo è anche il titolo della prima raccolta di poesie di Biagio Marin. Per finire la giornata siamo andati sulla diga, dove in un giardino privato abbiamo visto una rigogliosa bougainville in terra, prerogativa di un clima mediterraneo. Punto di svolta nella storia della grappa alla fine 800, quando sul mercato arrivarono nuovi alambicchi per sostituire quelli dei distillatori ambulanti. Fin dai primi dell'800, le tecniche di distillazione fecero registrare in tutta Europa un notevole avanzamento, a partire da alambicchi sempre più lontani dal vecchio tamburlano metallico a fuoco diretto. Però, mentre altrove le novità mirarono a produrre acquaviti da cereali, frutta o erbe aromatiche, a sud delle Alpi gli alambicchi mutarono, puntando sulle vinacce. Tra le famiglie contadine e le aziende agricole del comprensorio oggi regionale, la tradizione di distillare in autonomia vinacce e fondi dei vini prodotti con l'uva dei propri vigneti giunse fino alla seconda metà del secolo, garantita dall'apposita conferma concessa dall'imperatrice Maria Teresa e favorita dalle agevolazioni che la legislazione vigente nel Lombardo-Veneto assicurava alle distillerie agricole operanti sui prodotti di minor pregio dell'agricoltura e su altre derrate, innanzitutto vinaccia, e poi susine, ciliegie e altri frutti, o talora cereali, grazie a norme concedenti al vinificatore di lambiccare da sé, e in esenzione d'imposta, tante vinacce quante se ne potessero distillare in 24 ore, casomai ricorrendo a un alambicco mobile, cioè dotato di ruote e di autorizzazione. Assicurando possibilità di movimento notevoli, quei primi alambicchi semoventi consentivano all'antenato dell'odierno distillador, ossia detto allora Sgnapin, di là alambicare la trape di cascina in cascina. Un'azione capillare per uno dei fra i meno conosciuti artigiani senza insegna, intraprendenti friulani che Chino Ermacora, pur non citando la specifica categoria ormai estinta, nel 1953 descriverà lungo le strade che incessantemente percorrono, nei villaggi dove lavorano, nei cortili dove bimbi e bipedi ruzzano insieme. D'altronde, nonostante quanto già ricordato su produzione e commercio della grappa fra 400 e 800, la distillazione della vinaccia, così come quella del vino, fu una sorta d'artigianato d'ambito domestico ben oltre il 1850, consentendo a molti di ricavare dalla zarpa delle acquaviti squisite, come per esempio l'Iperofil bianca o quella gialla, prodotte nel castello di Dobra, la prima premiata nel 1891 a Gorizia e la seconda passata in fusti di legno a prendere colore ed aroma. Sul finire dell'Ottocento, poi, il ricercatore Emilio Comboni, della Stazione Ecologica di Conegliano, mise a punto un alambicco da grappa, in grado di garantire senza grosse spese acquavite di qualità con la limitata disponibilità energetica di allora. Era un apparecchio a cestelli, alimentato a vapore, in cui le vinacce restavano separate dall'acqua. Un secolo dopo i suoi derivati rappresenteranno quasi la metà degli alambicchi regionali, della regione in cui Comboni aveva testato la sua invenzione. Mentre piccoli tamburlani saranno a lungo all'opera nell'area giuliana, in Friuli il tipo comboniano sarà adottato in molte distillerie, a fronte di un'assenza quasi totale di alambicchi a bagnomaria o a fuoco diretto. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Quello con 25 di umidità non trattato alla Camera di Commercio viene pagato a 13,20 il quintale. Il frumento terreno buono mercantile tra 19,19,30, l'orzo tra 19,50 e 20 euro e la soia nuovo raccolto 32,32,50. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 10 centesimi, mentre la soia è diminuita di 4 euro al quintale. Scambi positivi con buoni affari al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate tra 1,20 e 1,40 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 1,20 e 1,30, la scarola riccia tra 2,60 e 2,90, le zucchine tra 0,60 e 1 euro, quelle in fiore tra 2,20 e 2,50, le melanzane tonde tra 1,10 e 10, i pomodori italiani in grappolo, in calo, tra 1,80 e 1,90, il radicchio rosso tondo tra 1,30 e 1,50, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,40 e 1,50, le patate tra 65 e 85 centesimi il chilo, l'uva tra 1,50 e 1,80, le mele golden tra 0,80 e 1,60, le pere tra 1,50 e 1,80, i kiwi italiani tra 1,60 e 1,80. Il settore della pesca è in ripresa, il tempo è favorevole e i prezzi evidenziano un leggero calo. Alla cooperativa Pescatori Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 18 e 25 euro al chilo al netto dell'IVA, le sogliole da 7 a 24, i cefali da 1 a 4, le orate da 7 a 15. Domanda sostenuta nel comparto caseario, con il montaggio fresco quotato tra 5,10 e 5,80 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,50 e 7 euro, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,60 e 8 euro al chilo. Infine, scambi attivi sui mercati avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,10 e 1,12 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,35 e 1,37, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,20 e 2,24, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,14 e 2,20, le uova da 63 a 73 grammi a 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Le ultime giornate hanno mostrato un volto decisamente mite e sono state ben soleggiate sulla regione. Ieri la svolta. Una piccola depressione mediterranea ha portato di nuovo la pioggia sulla regione. Un'alta depressione alle sue spalle si va formando tra Francia e Spagna e condizionerà il tempo per la settimana entrante. Domani ci aspetta una giornata con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, ma attenzione a qualche nebbia notturna sulla bassa pianura e vicino alla costa. Sui monti qualche nube bassa di primo mattino e qualche possibile rovescio pomeridiano renderanno il cielo variabile. Le temperature inizieranno a salire un po' e soffierà ora moderata dalla sera sulla costa. Martedì sarà simile a lunedì, ma senza foschie o nebbie notturne e sempre con buona moderata però tutto il giorno sulla costa. Mercoledì sarà una bella giornata con cielo sereno e temperature decisamente miti. Le massime infatti raggiungeranno e supereranno i 25 gradi in pianura. Giovedì potrebbe esserci una nuova svolta con l'avvicinamento della depressione iberica e con un aumento della probabilità di precipitazioni sulla regione, sempre in presenza di ventilazione orientale. Le temperature dovrebbero quindi diminuire un po'. Il fine settimana appare incerto, tra qualche precipitazione dovuta al lento avanzamento verso est della depressione e la resistenza opposta da un robusto anticiclone sull'Europa orientale. Quindi, per essere correttamente informati sull'evoluzione, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: a San Simon e Giude la rave ven madure, o madure o non madure, la si mezzo si aradure, ovvero per il giorno di San Simone, il 28 ottobre, le rape sono mature, mature o non mature, le si mettono letteralmente sotto serratura, ovvero in un luogo per la conservazione, da intendersi qui anche nelle tinozze per la brovada. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. E potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/fvg. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?